Cartellone di Elisabetta Fiorito. Pronto? Ma sto operando. Ti richiamo dopo, ok? Ciao. Io non lo so. Si è acceso il cellulare durante l'operazione. E con questa suoneria. L'ho sfregiato. E capirai che sarà mai. Siamo o non siamo chirurghi plastici? Dai che lo rimetto a posto io, dai. Mamma mia, che problemi. Aldo, ti richiamo, senz'ala. Ti richiamo, ciao. Una dimenticanza. Poi me l'ha passato tutta alza col Bluetooth, eh? E quello che avete sentito è Greg Anatomy di Lillo e Greg, i due famosissimi comici romani che sono in tournée in questi giorni in tutta Italia, perché si parte dal Teatro Nuovo Palazzo a Bari sabato 13 marzo, cioè oggi, poi domani saranno all'Auditorium Parco della Musica e poi venerdì 19 marzo e il 28 marzo con la Baita degli Spettri in trasferta al Kreberg Teatro Bergamo. Buongiorno Lillo. Buongiorno a voi. Insomma, un po' impegnati in questa tournée di varie cose, ma soprattutto perché la vostra comicità, così romana un po' in fondo, piace però in tutta Italia? No, guarda, il fatto è che di base c'è poco di romano, specialmente nelle commedie che facciamo, perché sono commedie che non hanno nessun tipo di riferimento a luoghi e a personaggi, diciamo, legati a una città come può essere Roma, o qualsiasi altra, insomma. E sono solamente, facciamo un teatro molto surreale, molto giocando molto sull'assurdo, che è un po', diciamo, ha un linguaggio un po' abbastanza ampio, tant'è che una delle nostre commedie è stata acquistata da una compagnia spagnola che l'ha messa in scena proprio 4 mesi fa, grosso modo, a Palma de Mallorca, in spagnolo, quindi per farti capire, senza toccare una senza cambiare una battuta, quindi per farti capire che poi in realtà non siamo legati ai luoghi, ma più che altro a una situazione comica. Una situazione comica che però si esprime anche un po' con battute dialettali, era questo io dicevo semplicemente il romano. No, ma ti dico, io amo il romano, amo il romanesco, sono fierissimo di essere romano e adoro parlare romano, ma quando serve, nel senso che nelle commedie spesso non serve e non lo usiamo, però poi magari ci sono, per esempio quando facciamo spettacoli sketch, in alcuni sketch ci sono dei personaggi tipicamente romani che vengono caratterizzati in quel modo, però non diciamo che a me personalmente piace, diciamo, in certi punti non nascondere il dialetto, perché quando parli, fai battute che hanno un sapore discorsivo, dirle in italiano recitato, insomma, diventa sempre un po' finte, quindi diciamo che tendo comunque a far sentire senza nessun tipo di problema la mia cadenza, però non lo usiamo quando serve, insomma, per esempio nella Baita degli Spettri. Ecco, quello che volevo dirti, nella Baita degli Spettri di che cosa parla questa commedia e dove è ambientata? È una commedia che, diciamo, una parodia del genere horror, quindi sono un sacco, vengono presi in esame in molti luoghi comuni horror, sono la storia di 5 ragazzi, insomma 5 persone adulte che affittano una baita in montagna che sembra sia abitata da spettri, per cui da quel momento in poi parte una storia diciamo con risvolti horror e anche di comicità demenziale, quindi è un omaggio, diciamo, a questo genere qui che si presta molto alla comicità, insomma, stesso che ne so, uno dei film più divertenti mai realizzati è Frankenstein Junior, è la parodia di Frankenstein, no? Per cui l'horror si lega bene con la comicità, cioè le ambientazioni horror legano bene con la comicità, secondo noi, e lo abbiamo dimostrato con questa commedia che, insomma, adesso è un po' di anni che la facciamo, è una commedia di ormai di successo tastato con mano, nel senso che dovunque l'abbiamo fatta la gente ha sempre riso molto in qualsiasi città di posto d'Italia. Anche perché è molto difficile non ridere con te, Greg, sul palcoscenico, come vi ho visto, è molto molto divertente. Senti, però mi sembra che nelle vostre commedie, no, in queste parodie, si prende un po' in giro la società, ovviamente, per questo poi sono divertenti, no? Anche in Greg Anatomy c'era questa tendenza di rifarsi tutte, no? Delle donne, ma anche degli uomini, questi medici assolutamente surreali, e prendete un po' in giro quello che sta succedendo nella società. Specialmente in Greg Anatomy è andata così, perché Greg Anatomy è stata una scelta che abbiamo fatto con Serena Dandini. Lei è sempre molto attenta a cercare di fare un minimo di satira sociale, spesso anche politica, però nel caso nostro noi siamo più abituati a fare satira di costume, no, che politica. Quindi sì, Greg Anatomy è un po' una presa in giro a questa voglia di essere belli a tutti i costi, ed è anche una presa in giro al mondo dei professionisti cialtroni, se vuoi, no? Cioè di questi che fanno il mestiere solo per guadagnare soldi. E quindi scusa un attimo, posso interrompere un secondo solo? Certo. Aspetta, ti ringrazio, ecco qua, ecco, faccio subito. Allora, ecco, scusa, posso riprendere? No, ma che cosa stai facendo? Che ne so, un cappuccino, un cornetto? Questo no, ce no, no, no, mi sono fatto accendere una sigaretta che ho in mano da un'ora e che non riuscivo ad accendere. Stavo dicendo... Guarda, tu hai detto praticamente che in Greg Anatomy c'era questa satira di costume sulle persone che vogliono essere belle a tutti i costi e i professionisti che invece sono dei cialtroni. Esatto. Hai detto che nella Baita degli Spettri prendete in giro il genere horror, ma allora io chiedo a Greg e Lillo, perché poi senti anche Greg in questa intervista, ma quando praticamente poi vi trovate nella vita privata, no? Questa vena voi ce l'avete sempre? Oppure siete comici che sono un po' tristi nella vita privata, no? No, non siamo quel tipo di comici lì, nel senso che tendiamo a, comunque con Claudio, di natura noi siamo, cioè noi che ci frequentiamo da amici da sempre, insomma, abbiamo cominciato a lavorare insieme e quando già ci conoscevamo, ci frequentavamo come amici, non è stata una scelta professionale, cioè noi già ci conoscevamo da prima. E comunque la nostra tendenza è quella di qualsiasi cosa ci accade, no? Di qualsiasi tipo, no? Andando in giro, vivendo insomma normalmente come tutti, ci viene sempre dopo da rifare la scenetta o l'aberrazione di quello che ci è capitato, no? E da lì partono una serie di tematiche che ci portiamo avanti tra di noi per insomma divertimento nostro. Quindi diciamo che abbastanza, ci viene abbastanza naturale vedere il lato comico delle cose, no? Che poi è veramente in quasi tutte le cose, insomma, cioè c'è l'altra faccia che è una faccia comica, divertente, e anche nelle cose diciamo più cupe, specialmente in quelle cupe poi c'è il lato comico. Insomma, praticamente siete un gruppo d'amici che vi conoscete da una vita e, come si dice a Roma, si sparano un po' di cavolate, ecco, diciamo, siamo in radio, usiamo un eufemismo. Sì, è giustissimo, la cavolata è la parola giusta. Allora, Lillo e Greg in vari appuntamenti, oggi al Teatro Nuovo Palazzo di Bari con Sketch and Soda, domenica 14 marzo invece incontri d'autore, Lillo e Greg domani, gli artisti si raccontano in sala Sinopoli alle ore 21 all'Auditorium Parco della Musica di Roma, venerdì 19 e il 28 marzo al Kreber Teatro di Bergamo, La Baita degli Spettri, e poi sarete a Bologna e infine dal 4 al 9 maggio al Teatro Nuovo di Milano. Allora, quando poi tornate a Roma vi veniamo a vedere. Intanto mandiamo tutti i nostri radioascoltatori del Nord a vedervi in Lombardia, va bene? Grazie, un abbraccio, grazie mille. Ciao, grazie. Ciao Lillo. Parenti né affinni, non siamo consanguini neanche voi. ci sei uscito, ma sei messa con te. Però a letto ci vai te. E adesso parliamo di una delle opere più amate da tutto il pubblico e soprattutto la mia opera preferita, posso confessarlo, il Flauto Magico di Wolfgang Amadeus Mozart. Ma il Flauto Magico è usato da Fabio Grossi in una riduzione un po' particolare al Teatro Eliseo di Roma, una riduzione per ragazzi, Pappageno e il Flauto Magico di Fabio Grossi, Francesco Di Marco, Evelyn Hanak, regia appunto di Fabio. Buongiorno Fabio. Buongiorno e ben ritrovato. Visto che ci sei venuto di nuovo a trovare in studio, e diamo anche il benvenuto a Sante Paolacci, che ha l'ardito compito di interpretare Pappageno. Buongiorno. Buongiorno. E devo dire che è un Pappageno molto amato dai bambini. Allora, lo spettacolo infatti va in matinée per le scuole, sì, alle ore 10.30 dal lunedì al venerdì, e poi la domenica alle ore 11. E alle 11 è dedicato, uno spettacolo dedicato alle famiglie, quindi famiglie riunitevi e venite in via nazionale all'Eliseo di Roma. Ecco, uno spettacolo, una riduzione di un'opera abbastanza lunga. Quanto dura invece lo spettacolo per ragazzi? No, dura un'ora e un quarto. Un'ora e un quarto. Un'ora e mezza, compreso l'intervallo, perché sono diviso in due atti. E i bambini partecipano moltissimo. Moltissimo, perché è uno spettacolo interattivo. Per me aveva una valenza propedeutica, cioè fare uno spettacolo per bambini, che era la prima volta con il quale mi andavo a cimentare. E quindi il messaggio che volevo mandare era proprio quello di far sì che i bambini potessero poi un giorno ritornare a teatro, amare il teatro in tutti i suoi linguaggi, che possono essere dal teatro di figura con le marionette, l'opera lirica, la prosa, la musica e la danza, perché abbiamo anche una bravissima ballerina che interpreta il ruolo di Pamina. E che dire? Abbiamo costruito questo piccolo gioiellino, questa caramella, come è stata definita, e mi piace che ogni giorno venga scartata da una quantità enorme di bambini festosi, esultanti. E meglio di me, Sante ci può raccontare che tipo di approccio ha la mattina con i ragazzi. Sì, infatti, sì. Che succede? Allora, che senso ha interpretare Pappageno? Allora, non è difficilissimo, perché Pappageno è un bambino. È un bambino come loro, per questo poi diventa facile comunicare con loro, ma anche difficile poi tenerli buoni, perché partecipano molto, ma veramente tanto. Quindi ecco, mi diverto, gioco con loro, anche perché sto molto in sala, in platea, quindi i bambini ti sentono vicino, ti toccano, ti parlano durante lo spettacolo. Sei veramente suggeriscono. Ah, sì. Perché lui, insieme al principe Tamino, Pappageno deve superare delle prove di iniziazione. Una di queste è il silenzio, ma Pappageno non starà mai zitto. A un certo punto i bambini a gran voce dicono zitto. è la famosa aria che poi Mozart la rappresenta molto bene, quando Pappageno ha il lucchetto, in bocca. Sulla bocca. Sì. Pappageno è anche un personaggio un po' proprio amato dai bambini, perché è mezzo uomo, mezzo uccello, mezzo uccello. Si capisce, no? Ha tutte le piume, è un più che altro un personaggio che rappresenta un po' la voglia di volare dei bambini, la voglia di essere a contatto con la natura. L'animaletto istintivo che si muove appunto senza troppi pensieri, pensa a mangiare, pensa alle cose più pratiche e a giocare, e poi in realtà soprattutto e a giocare molto. A giocare molto, e quindi diventa il personaggio nella tua pièce principale, è sempre anche il personaggio principale. Naturalmente, essendo una riduzione dal libretto di Un nome improbabile, io chiedo perdono a tutti i cultori della lingua tedesca, sì, soprattutto che Emanuele Schikaneder, che ha scritto il libretto per l'opera di Mozart, essendo una riduzione di un'opera così importante, così numerosa di personaggi, io l'ho messa in scena con 4 attori. E quindi ci sono molti accorgimenti per drammaturgici per poter raccontare tutto quanto. E abbiamo il principe Tamino, che nella mia pièce è Enrico Gimelli, Sarastro, che è Gerardo Fiorenzano, Papagena, che è l'uccellatrice che poi convolerà a nozze col nostro uccellatore Sante Paolacci, che è Cristina Capodicasa. E poi abbiamo la partecipazione di una Terzicorea. Ho voluto inventare l'idea della principessa Pamina, che era una principessa che aveva rinunciato a parlare per amore e perché portata via dalla casa materna, e proprio per far conoscere anche la danza classica ai bambini che sarebbero intervenuti, che è Pui San Zhang. Ah, cioè, ha un nome, è molto importante. E quindi quattro personaggi che riducono un'opera molto complessa come quella di Mozart. Come quella di Mozart, una Pamina muta. Una Pamina che si esprime ballando. Ecco, sì. Muta, invece un Pappagallo che parla e parla molto. Parla troppo pure. Certo. Però mi piace che c'è Pappagallo, perché è il mio personaggio preferito. E Pappagallo ha un ruolo maggiore che nell'opera di Mozart, perché le ho affidato il prologo, perché deve addestrare, deve abituare i bambini all'incontro con la Regina della Notte. La Regina della Notte, che è un personaggio molto particolare, molto benefico, che potrebbe impietrire l'auditorio, e i ragazzi vengono forniti di mascherine, come in un film a 3D, molto più casareccio, proprio per schermare il maleficio della regina. Ed è bellissimo vedere, quando arriva la Regina della Notte, tutta la sala con le mascherine. Tutti i bambini con le mascherine, sì. È molto bello. Il verso che ami di più di Pappagallo, che vuoi dedicare a tutti i bambini? Allora, diciamo che Pappagallo ha già una voce particolare che... Allora ce la puoi un attimo fare, un pezzettino. Paura, paura, Pappagallo, paura. Ha sempre paura. E beh, un bel vigliaccone, Pappagallo. Sì, però per questo pavido. Che noi lo amiamo molto più di Tamino, dai, che è un po' noioso. Il principe e la principessa. Ma difatti, questo... quando tu verrai una bella domenica a vedere lo spettacolo con i miei nipoti, con i tuoi nipoti, capirai anche perché questo gioco del principe è molto sottolineato nel mio spettacolo. Ricordiamo allora Pappagallo e il flauto magico, uno spettacolo per bambini ma non solo, dalle 10.30 dal lunedì al venerdì, e alle 11 invece libero la domenica, per tutte le famiglie. Io però vorrei ricordare... Teatro Eliseo di Roma. Sì, vorrei anche ricordare che le musiche sono tratte dai temi originali di Mozart e rielaborati dal maestro Giovanni Zappalorto, che insieme alla Musicomics Orchestra lo hanno organizzato, mentre le scene e i costumi sono di Emilio Ortulieto. E quindi i bambini imparano sia la storia e sia soprattutto la magnifica musica. Imparano a orecchiare la magnifica musica di Mozart. Grazie a te. Ascoltatemi, amici romani, concittadini. Io vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo. Il male che l'uomo fa vive oltre di lui. Il bene sovente rimane sepolto con le sue ossa, e sia così di Cesare. E abbiamo riconosciuto il mitico Vittorio Gassman che recitava Marcantonio in Giulio Cesare di William Shakespeare. Perché? Perché andiamo a Milano, sempre in questa parte dedicata al teatro dei ragazzi, perché Laura Pasetti e il Charioteer Theatre fa alcuni spettacoli proprio per le scuole e non solo, sul grande bardo britannico. Buongiorno Laura. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, avete appena finito uno spettacolo che è molto divertente, almeno dal titolo, Romeo and Juliet Are Dead. Esatto, sì, abbiamo fatto oggi l'ultima recita, è stato un gran successo, è piaciuto molto questo riduzione e adattamento della tragedia di Shakespeare per tre attori che, scambiandosi ruoli, ripercorrono i momenti più importanti della loro storia, cercando di capire se Shakespeare si è sbagliato a dare loro questa fine tragica dopo una settimana di vita insieme, perché Romeo e Giulietta si conoscono il sabato sera ad una festa e il sabato successivo sono già morti. E quindi noi ci siamo inventati questa storia in cui i personaggi non sono per niente soddisfatti di questo finale e, ripercorrendo i momenti principali della loro storia, cercano di dare un senso e di capire se potevano forse trovare un destino migliore. Sempre nella scatola magica del piccolo teatro Strehler a Milano c'è invece in partenza Get Me Out of Here, e sarà uno spettacolo di matinée per le scuole da lunedì alle 10, poi un altro spettacolo alle 11.30. Di che cosa parla questo spettacolo? Get Me Out è veramente un esperimento e una sfida, è uno spettacolo nato proprio per le scuole medie, indirizzato ai ragazzini delle scuole medie, e è nato come una sfida proprio perché parte da un format che è quello che conoscono molto bene, cioè l'Isola dei Famosi. Il titolo infatti, Get Me Out of Here, viene dal titolo dell'Isola dei Famosi inglese, che si chiama proprio così, I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. In questo caso, I'm a Shakespearean Character, Get Me Out of Here, sono un personaggio di Shakespeare, tiratemi fuori. Di qui. Insomma, tra Pirandello e Shakespeare c'erano, esatto, i sei personaggi, esatto, che cercavano un autore, invece qui c'è un personaggio shakespeariano che vuole uscire fuori. Sì, sono i personaggi di Shakespeare intrappolati sull'isola dal mago Prospero, che è convinto che Shakespeare non vada più di moda, non piaccia più, e vuole evitare loro una delusione. Quindi li tiene sull'isola, gli fa fare lezioni di limbo, fa fare il karaoke, hanno la TV satellitare, possono fare i massaggi thailandesi. E naturalmente non sono contenti perché vogliono recitare e fare i personaggi di Shakespeare. Ecco, quali sono questi personaggi di questa Isola dei Famosi shakespeariana? Tipo, sono quelli che tentano la fuga, sono Lady Macbeth, Puck e Amleto. Tentano la fuga su una piccola barca e vengono fermati, non riescono a fuggire. E Prospero fa loro una proposta, lancia loro questa sfida. Se vi porto in un teatro e convincete il pubblico che siete ancora interessanti e meritevoli di essere rappresentati, vi lascio andare. Altrimenti restate qua. Accettano la sfida e il format che Prospero propone loro è quello di un reality. E quindi si trovano a dover essere nominati, a essere concorrenti, a partecipare, e ci sarà una giuria di ragazzi che sceglierà ogni volta il vincitore. Quindi è uno spettacolo interattivo molto basato sull'improvvisazione. Gli attori sono pronti ad improvvisare a seconda del finale che i ragazzi sceglieranno. Noi temiamo per i trucchi che cercherà di mettere Lady Macbeth per non essere nominata. Poi ce n'è un altro, Shakespeare vs. Shakespeare, che invece è alla Scatola Magica del Piccolo Teatro Strer di Milano in serale, ed è uno spettacolo dal 15 al 21 marzo per famiglie, e per ragazzi e per adulti. Esatto, lo spettacolo Shakespeare contro Shakespeare è uno spettacolo che è nato per i ragazzi un po' più grandi, cioè per i ragazzi del liceo, dell'università, e poi per gli adulti, ed è uno spettacolo, anche lì è un altro modo di raccontare Shakespeare. All'interno di questa storia verranno rappresentate scene dai più importanti dalle più importanti tragedie di Shakespeare, da Giulio Cesare a Misura per Misura, a Romeo e Giulietta, ci sono un po' tutti, a Riccardo III, e gli attori, proprio in questo caso la storia da due attori, Lucy e Cameron, che si trovano a fare un programma radiofonico in cui loro leggono delle scene di Shakespeare in una radio, diciamo, di terzo ordine nel mezzo della campagna scozzese, quindi non il massimo della loro carriera. Si trovano in questa stazione radio, succede un disastro, un cataclisma che sconvolge il mondo, non si sa bene che cosa, si trovano intrappolati nella radio, non sanno cosa fare, decidono di continuare a fare questo programma e vanno avanti a recitare Shakespeare. Allora, abbiamo sentito il Piccolo Teatro Strehler, Scatola Magica, da 14 al 21 marzo in mattinata per le scuole, Get Me Out of Here, quindi l'Isola dei Famosi versione shakespeariana, e poi invece per un pubblico un pochino più adulto, Shakespeare vs. Shakespeare, dal 15 al 21 marzo. Grazie Laura. Grazie mille. Ma io, Riccardo III, re d'Inghilterra, sono deciso a riuscire astioso, sì, velenoso, astioso, sono un raspaccio. L'avrete senz'altro riconosciuta, è Anna Mazzamauro, che interpreta Diario di un pazzo che amava Shakespeare di Nikolai Gogol, in scena al Teatro Ghione fino al 21 marzo. Buongiorno Anna. Buongiorno, ti faccio subito un appunto, non è di Gogol, è mio, l'ho scritto io. Ah, si ispira, no, si ispira. Però però hai la possibilità di redimerti, nel senso che sei giustificata, perché è grazie tratto... grazie prego, adesso ti spiego perché, spiego anche al pubblico, altrimenti può essere deluso se pensando di andare a vedere Gogol. È tratto da Gogol, io ho preso l'idea e l'ho scritto io. Allora a me dispiace, dico scherzando, che mi abbiano potuto riconoscere in una vociaccia così come quella di Riccardo III re d'Inghilterra. In realtà io sono molto più soave, almeno nella voce. E questo spettacolo, ti dicevo, l'ho scritto io perché Gogol aveva scritto Diario di un pazzo, punto e basta. Però altri attori che hanno interpretato sicuramente in maniera egregia questo racconto, che è un racconto quasi preparato drammaturgicamente al teatro, l'avevano interpretato in maniera tradizionale. Ora a me interessava andare oltre e quindi ho spostato tutto il mondo impiegatizio caro a Gogol nel mondo del teatro. Quindi il mega direttore galattico, scusa la citazione fantoziana, diventa l'impresario. Io sono innamorato della figlia dell'impresario, il tesoriere, termine prettamente fine 800, diventa l'amministratore di compagnia e così via. E comunque la storia di questo attore pazzo, perché Gogol mi è scattata l'idea di questo spettacolo quando ho letto il titolo originario del racconto, ed era Diario di un musicista pazzo. E allora ho pensato, se un musicista pazzo, perché non un attore? Ed è nato lì questo racconto teatrale, dove ed è questo il segreto dello spettacolo. Io temo, sospetto che a te, a me, a tutti quanti sia avvenuto di provare un grande dolore, una grande gioia, comunque una grande emozione, e non è difficile sostenere il dolore o sostenere la grande emozione, ma è difficile parlarne, trovare le parole giuste, sono quelle che ci rendono doloranti. Allora il segreto di questo pazzo, che poi tanto pazzo non è, è di diventare i personaggi che Shakespeare gli soffia nell'orecchio, e quindi è molto comodo per lui soffrire attraverso le parole di questi personaggi. Sono loro che a quel punto soffrono, ridono, piangono e provano emozioni. Ecco, prima di tutto, insomma, una bella spiegazione, bella corposa. Allora, primo, tu interpreti intanto un uomo. Sì. Tu, sì, attrice già, donna, interpreti un uomo. Quindi, ecco, già ho fatto Cyrano di Bergerac io, quindi... Sì, sei abituata. Sì, cioè, sì, comunque, insomma, poi prendi un testo di Gogol, lo trasformi per il teatro. Quindi, insomma, una bella operazione. E in scena ci sei solo tu? E ci sono due musicisti. Quindi è un monologo praticamente che tu hai scritto. Ma no, non dire questo, perché la gente al termine monologo si rompe le scatole, diciamo, un po' noioso. Perché la gente accetta i monologhi soltanto quelli ridanciani, quelli grevi, quelli pesanti, un po' cabarettistici. Anzi, molto cabarettistici, che è abituata a vedere in televisione. Diciamo che è una forma di teatro dove ci sono scene, costumi, una forma di teatro un po' diversa, dove ci sono tutti questi personaggi. Che cosa si prova ad entrare nei personaggi di Shakespeare? Il pazzo cosiddetto dello spettacolo non recita Shakespeare, ma lo vive come un linguaggio naturale per lui. Quindi a me Anna, a me attore, fa lo stesso effetto. Io parlo con le parole di Shakespeare e divento quei personaggi. È una bella esperienza emotiva che dai anche allo spettatore. Allora, Anna Mazzamauro, ricordiamo, fino al 21 marzo al Teatro Ghione di Roma, Diario di un pazzo, che amava Shakespeare, tratto da Nikolaj Gogol, ma scritto da Anna Mazzamauro, che interpreta un uomo, un attore frustrato, un pazzo, che entra dentro i personaggi di Shakespeare regalandoci una grandissima emozione. Grazie Anna. Grazie a te. There's nothing left. Nothing but ghosts. But I knew you'd come back, Madame Giry. You're still here? Of course we're still here. The freaks monstrous, the bizarre. Where else could we exist but here? E adesso ci spostiamo a Londra, dove scopriamo che l'amore non muore mai, love never dies, e andiamo alla Delphi Theatre, o meglio, la nostra Michela Daghini è andata alla Delphi Theatre per vedere questo sequel, sempre di Andrew Lloyd Webber, del suo Fantasma dell'Opera. Buongiorno Michela. Buongiorno Elisabetta, buongiorno a tutti voi. Allora, viene spontaneo dire, ma alla Delphi Theatre fino a quando? Ci starà sicuramente anni, come tutti i musical di successo qui, a parte pochi flop che terminano dopo qualche mese, solitamente poi stanno per alcuni anni. E se segue la fortuna del Fantasma dell'Opera, ovvero la prima parte dello spettacolo, beh, è in scena da 28 anni, quindi c'è da sperare che ci sarà tempo per vederlo. Cosa succede in questo sequel? Intanto, da dove è finita la storia e da dove rinizia? Dunque, la storia era finita con lei, la cantante Christine, che scappa con l'uomo con cui era Raul, con cui era già legata da tempo, c'era questo amore contrastato con il fantasma. Adesso invece lei viene richiamata da un misterioso impresario a Coney Island, viene richiamata per cantare dopo 10 anni, e si scopre naturalmente che poi l'impresario sarà il fantasma, che non riesce a dimenticarla, la vuole assolutamente rivedere, e tra loro di nuovo rinasce questo amore infinito, appunto, che non muore mai. Allora, ascoltiamo un brano proprio del musical. Insomma, è veramente un modo per sognare molto romantico, Michela. Tu hai visto lo spettacolo e ci parlai di costumi bellissimi. Costumi bellissimi, scenografie grandiose, beh, parliamo sempre della grande tradizione, siamo nel West End, quindi con Broadway, l'Olimpo del teatro musicale, l'investimento è molto forte, i cantanti almeno nei primi mesi per lanciare lo spettacolo sono sempre di livello molto alto, insomma la tradizione c'è, si vede, stiamo parlando di standard molto molto elevati. La prima mondiale è stata martedì, qui alla Delphi Theatre, come dicevi, ha diviso la critica, proprio la spaccata, c'è chi ha dato al musical 5 stelle come il Guardian e l'Independent, ne hanno parlato molto bene, c'è chi come il Times ha dato allo spettacolo solamente 2 stelle su 5, criticandolo molto. Va detto che, come spesso accade, il successo, lo scontento della critica, come si sa, nulla hanno a che vedere con l'impatto sul pubblico, che di fatto è veramente entusiasta, e lo era quando ho visto lo spettacolo. Standing ovation, applausi di alcuni minuti, molti applausi a scena aperta, tra l'altro gli inglesi non applaudono molto al termine della rappresentazione, in Italia se ci piace uno spettacolo e ci è sembrato bello, particolarmente bello, richiamiamo gli attori sul palco diverse volte, invece qui, anche se uno spettacolo è molto ben riuscito, fanno un caloroso applauso ed escono, dunque se c'è una standing ovation vuol dire che l'entusiasmo è particolarmente forte. Infatti la gente uscendo ne parlava in termini molto positivi, il pubblico sta andando a vederlo ed è molto entusiasta. Dunque, la critica si è spaccata, dicevo, io mi trovo d'accordo con chi non ne ha parlato troppo troppo bene, ovvero trattasi sempre di grande musical, come dicevamo. L'aspettativa senz'altro era immensa, perché il Fantasma dell'Opera, lo ricordo, è il musical più longevo in assoluto, il più popolare in assoluto e tuttora il più visto, rompendo il record di Cats, sempre di Lloyd Webber. Ha debuttato a Broadway nell'88 ed è il progetto di intrattenimento di maggior successo al mondo. Pensate che ha guadagnato attorno ai 7 miliardi di dollari, sorpassando per incassi blockbusters come Titanic o Guerre Stellari. Quindi parliamo, ecco, veramente... Ma perché non ti è piaciuto? Perché è un po' una romanticheria? Beh, per prima cosa c'è da dire, secondo me, che la trama del fantasma è estremamente intrigante, l'atmosfera dello spettacolo era ineguagliabile. Il musical del fantasma, il primo, è perfetto per la scena, visto che è ambientato, lo ricordo, nel Teatro dell'Opera, dove è in scena la grande musica. E c'è questo misterioso fantasma dell'opera, appunto, divenuto ormai un'icona, che è questo geniale musicista sfigurato, lo ricordo, che vive nei sotterranei del teatro e che si innamora riamato, ma di un amore contrastato, appunto, della soprano Christine. È comunque una sorta di thriller, no? C'è questa atmosfera di tensione, non si capisce se il fantasma è buono o cattivo, si manifesta sotto varie forme, scompare la luce, si spegne tutto. C'è una grande tensione che qui manca, anche la storia naturalmente è diversa, ormai sappiamo il fantasma chi è, sappiamo che ama Christine, c'è questa storia anche un po' criticata perché in effetti si dice lei che dopo 10 anni torna lì col marito che beve, quindi una coppia che non funziona, quindi chiaramente una coppia che si può anche rompere, con questo figlio, vabbè, colpo di scena, poi non racconto. No, non racconto, adesso vabbè, almeno in questo sono stati un po' realistici, la coppia che dopo 10 anni scoppia è abbastanza realistico. Allora ricordiamo, noi ringraziamo soprattutto a Michela che ci dà delle chicche di anteprima, Love Never Dies, il sequel di Andrew Lloyd Webber del Fantasma dell'Opera alla Delphi Theatre di Londra. Ciao Michela. Ciao Elisabetta, ciao a tutti. To him it's beautiful, my world is beautiful. L'Italia è il bel paese, beh, questo si sa, è il nostro pregio, la nostra virtù, almeno ogni tanto una botta d'orgoglio, perché con i tempi che corrono, con la crisi economica, almeno questo noi continuiamo a averlo. Ed in un'atmosfera particolarissima di una delle più belle ville d'Italia, Villa d'Este a Tivoli, in provincia di Roma, oggi si inaugura una mostra fotografica particolare. I luoghi italiani patrimonio dell'UNESCO, e non è un luogo, sono tanti luoghi. Questa mostra fotografica è stata fatta da Luca Capuano, che ha viaggiato in 9 mesi e in lungo e in largo la penisola italiana per catturare questi luoghi. Buongiorno Luca. Buongiorno, salve a tutti, gentili ascoltatori. Allora, un paesaggio descritto, che cosa vuol dire? Niente, questo titolo ha un doppio significato, abbiamo provato a dare un doppio significato. Da un lato il paesaggio scritto, il paesaggio dell'Italia, del patrimonio UNESCO, in cui tutto è scritto, in cui anche la stessa natura è comunque antropizzata, comunque è stata lavorata dall'uomo. E quali sono questi luoghi? Almeno sì, sono tantissimi, però noi vorremmo capire quali sono i luoghi principali, anche perché sono 450 fotografie, 44 siti italiani? Sì, esatto, dovevo documentare tutti i 44, diciamo per rendere facile le cose, centro storico di Firenze, centro storico di Napoli, centro storico di Roma, ecco, luoghi che suonano subito come luoghi importantissimi e conosciuti da tutti, fino ad arrivare all'opposto, quindi magari a un unico luogo piccolo ma importantissimo, che può essere ad esempio, mi viene in mente, il Cenacolo di Leonardo da Vinci, la cui tutela UNESCO si riferisce in modo particolare all'affresco di Leonardo. Esatto, all'affresco di Leonardo. Allora, insomma, una mostra fotografica importantissima, il paesaggio descritto, i luoghi italiani patrimonio dell'UNESCO, le fotografie sono di Luca Capuano, a Tivoli, a Villa d'Este, in provincia di Roma, dal 13 marzo al 18 aprile. Grazie Luca. Grazie, arrivederci a tutti gli ascoltatori, a voi. Arrivederci. Adesso passiamo a un'iniziativa un po' particolare, quando il teatro sposa la beneficenza oppure degli scopi umanitari molto alti. Perché? Perché al Teatro Sala 1 di Piazza Porta San Giovanni a Roma, Medici Senza Frontiere incontra uno spettacolo particolare. Una parte del ricavato andrà appunto all'organizzazione che si occupa di curare i malati in tutto il mondo, anche non quello occidentale, diciamo. Girotondo di Schnitzler, interpretato tra gli altri da Stefano Pesce. Buongiorno Stefano. Sì, buongiorno, come va? Bene, allora, tanti attori nello spettacolo teatrale di Paolo Sassanelli, diretto da Paolo Sassanelli. Tu fai la parte del marito, ci spieghi un attimo che cos'è questo intreccio di, questo, di questa pièce famosissima di Schnitzler, in cui praticamente un personaggio si passa la parola all'altro, passa la parola all'altro. Dunque, allora, questo, come hai detto tu, è un testo scritto all'inizio del Novecento, sono 10 scene interpretate da 10 attori e sono 10 figure. Vi elenco rapidamente: la prostituta, il soldato, il giovane signore, la giovane signora, il marito, la ragazzina, il conte, l'attrice e di nuovo la prostituta. Queste figure si, diciamo così, con un'analisi veloce ma non superficiale, vivono una solitudine, sentono di uscire dalla solitudine attraverso la sessualità, i sentimenti, ma dopo, diciamo così, l'accoppiamento, l'atto sessuale, il personaggio rimane nella sua solitudine. Sassanelli è riuscito a non è riuscito a colorare la cosa di commedia, tentando di mascherare questo dramma, e quindi alla fine salta fuori ancora di più. Però lo spettacolo è da ridere. Siamo in costume anni 60 e quindi un periodo di cambiamenti dove appunto sembra che la sessualità sia libera, sia alla portata di tutti, e invece poi ci consegna questo mondo un po' di amarezza, ecco. Allora, voi siete in Teatro Sala 1 a San Giovanni fino a domenica 21 e si è sposato, almeno è stata una tua idea, quella di sposare il teatro con un'iniziativa umanitaria, con Medici Senza Frontiere, giusto? Sì, all'ingresso dello spettacolo c'è un banchetto informativo dove si possono fare anche donazioni, indipendentemente dall'incasso del teatro. Io mi auguro che venga molto pubblico, perché lo spettacolo è divertente, c'è molta musica, è molto godibile, insomma. Tutti gli attori che hanno partecipato hanno tentato di non fare il teatrone, no? Impostato. Quello lì che è così, con la voce molto. Ecco, sì, cioè il teatro che distanzia, che allontana, che ammorba, non è assolutamente questa cosa qui, pur essendo il girotto di Schnitzler. Ecco. Allora, questa è la scommessa. Ringraziamo Stefano Pesce, che torna al teatro dopo la televisione, no? Possiamo dirlo, certo. Dopo quella parentesi in Distretto di Polizia, e Teatro Sala 1 di Piazza Porta San Giovanni a Roma fino al 21, la domenica alle 18 e gli altri giorni alle 21. Grazie Stefano. Grazie e tanti saluti a Radio 24. E la magnifica tromba di Miles Davis ci accompagna al prossimo appuntamento, perché dal 13 al 20 marzo c'è il Dolomiti Ski Jazz, un appuntamento, anzi 25 appuntamenti musicali in programma, diurni, gratuiti, che fanno sì che gruppi musicali si esibiscano ad alta quota nei punti d'incontro lungo le piste da sci di uno dei grandi patrimoni dell'umanità, come è stato definito, le nostre Dolomiti. Buongiorno Enrico Tomassini. Buongiorno a tutti. Allora, noi che facciamo? Andiamo a sciare per il Sella Ronda e incontriamo un jazzista che suona. Com'è? Come più funziona? O meno è così, cioè, voi prendete gli impianti della Valle di Fiemme, che sono tanti, diversi e variegati, e ai bordi delle piste, nei rifugi, sentirete del jazz, e incuriositi fermandovi avrete occasione di seguire il nostro festival, che sono 13 anni che si svolge a marzo e che porta questi grandi artisti appunto nei rifugi, nelle baite alpine, tutti i giorni a mezzogiorno, e poi la sera ci si può trasferire nel fondovalle, nei teatri, nei club dei paesi della Valle di Fiemme, per seguire altri concerti importanti con importanti artisti. Ad esempio abbiamo sentito Miles Davis poco fa, il 12 a Tesero ci sarà Gary Thomas, che è stato un sassofonista che ha collaborato anche con il grande Miles. Insomma, tanti, 25 appuntamenti nelle scuole, nei locali. Abbiamo anche un settore, diciamo, divulgativo, che porta il jazz la mattina nelle aule delle scuole della Val di Fiemme, a mezzogiorno appunto nei rifugi e la sera nei teatri e nei parchi. Quindi una manifestazione direi a 360 gradi. Allora, tutti in Val di Fiemme, uscita dell'autostrada? Uscita dall'autostrada Egna Ora, sull'autostrada del Brennero, e dopo 30 chilometri si arriva in Val di Fiemme e si sente subito suonare il jazz. Dolomiti Ski Jazz dal 13 al 20 marzo, come abbiamo sentito da Enrico Tomassini, sia in appuntamenti diurni sia in appuntamenti notturni, tutti in Val di Fiemme a sciare. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere a cartellone @radio24.it e vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sul nostro sito www.radio24.it cliccando ovviamente su cartellone. Vi auguro un buon weekend a tutti.